professore! Giammari! Come? Senta, si era da risetto a 20 già mendidi! Oh, non l'ho sentito, davvero! Non l'ho sentito, già! Già che c'aveva anche la televisione un po' alta! Allora, tu stavo detto che tu non l'ho chiamato! E poi già chiamare io! E non ti ho sentito, tu hai sempre acceso qua. Dalle 7:20 che ti ero già mente. Ah, detto, ma tu sarà occupato. Ah, ho pensato. Allora mi sono portato mai da mio dal giornale. Non mi caso a chi mi conto Bononici con Laurizi, che ha fatto un vestito da cosa, da un tagliare la legna, una moto sega in mano, e l'ho buttato forse ieri, e allora per la base, e non l'ho sentito tu, non ti ho sentito per quello. Sì, non fai nulla. Ciao, la prossima volta. Vabbè, io ho pensato, ti fa venire gente in casa, non puoi rispondere. E va bene, allora tu mi hai commentato il vincolo, già mendi. Non l'ho sentito, e ho iniziato, mi dicevo, lo guardavo l'apparecchio. Non ti ho sentito. Che attacca si abbasso, poi c'è il giro vedo un lago che sale, capito? Oggi non ci ho veramente mai fregato il tempo. Cose che succedono sotto, dove fare? Vabbè, già non è nulla di grave. Ciao, alla prossima. Allora, dottore, sì? Non ci possiamo lamentare, C'è un po' di venticello stasera, è freschetto, Un po' di freschetto c'è, ma anche adesso è fuori, c'è un po' di freschetto. Ormai io sono sempre dentro casa, per cui la si sta bene adesso, passo qua, c'è da lì 5, e per cui, anche prima pure l'ho accesa, e per cui si sta veramente bene. Poi c'ho anche questa soffetta piccolina, perché c'è sempre a tenda ai piedi, capito? Allora, dato che sono giabbato, ogni tanto mi alzo con la giabbata e mi riscaldo per puntare le dita, perché mi fanno anche male quando sono freddi, capito? Infatti, la circolazione del sangue che non arriva fino alle punte. Non ho capito. E qual è la circolazione del sangue che non arriva alle punte dei piedi? Così è. Allora. È così, infatti. Purtroppo è tipo geloni, Emmy. Fa tipo geloni. Così è. Vai a passa, dottor. A voglia si passa. Come andare il tempo ti si aumenta anche. Senz'altro, anche quello è vero. Per carità. Anche il PMR acceso, ogni tanto c'è una signorina chiacchierando, E fa se ne ve, ma come non rimane mondo. Non asseguisci di farvi i vaccini, non asseguisci, penso, Tanto non c'è nessuno in TV a fa se ne ve che lo trattano. Infatti, non è tanto il senso, perlomeno io ho pensato a quello, perché ci sono uomini anche ragazze. Tu cosa hai combinato oggi? Nulla, tornavi in casa e poi hai accompagnato i bambini, andato a pigliarli e portarli a casa Giulia. E siamo sgodurrato, pranzato e appena il giornello, si è abbattato la televisione appena il giornellino. E a casa cosa mi hai fatto? Sono uscito stamattina a tirarmi la bombola. Ma sono andato a prendere la bomba e me ne sono tornato subito, e non sono uscito per niente, nulla. Solo a prendermi la bomba e basta, per fare il calcio. Ma cazzo, ci arriveremo a testa, dai. Infatti è così. Anch'io stamattina non ho preso la bombola, ossia che mi manca, che verrà giù già più di un mese, ossia che manca e faccio il ricambio. Io non sto solo la macchina, tanto qua ho preso la bomba e sono entrato dentro. E qua io per mi ha visto, c'è la mascherina si metta. Basta, per mai avrà ridotto la faccia di botto. Quanto mi capita che entro nei posti e non mi metto la mascherina. Non sei giuro, non sei giuro, è capitato pure a me, un bel di voci. Grazie, mi sono dimenticato da te e già me l'ha messa direttamente, quindi mi sono fatto la mano, me l'ha tolto. Però vediamo, avvisato subito, mi metto la mascherina, per male. Ma dal giorno 11 non c'è più bisogno di mascherina, così adesso la televisione ieri notte, ieri sera. Fino all'11. Dal giorno 11 non c'è più bisogno della mascherina, non è obbligatorio, capito? Fuori, all'aperto, ma entrare dentro i negozi, uffici e cose ci vuole sempre una mascherina, ne entra la mascherina. Quello l'ho detto, quello l'ho detto. Però non l'ho letto tutto quello. No, già è così, sì. Fuori in strada puoi uscire senza mascherina, ma all'aperto. Però nei negozi, farmacie, e anche in discoteca la stessa cosa, bar, devi entrare con la mascherina. Nedra, pulma e tutto quanto, deve entrare sempre con la mascherina. Io pensavo che ci voleva più, invece così. No, stavo leggendo, si vede che non ho letto bene allora. Ho visto solo che dal giorno 11 non è obbligato la mascherina, e non ho letto altro, capito? Tutto lì. Se non sai che tu, vedi che l'hai letto, così è. Vabbè. Va bene così, pazienza, ci vuole pazienza, già avrà passato per la cosa, se si vuole Novax a farsi di coso, il vaccino, ma sicuro che ne riesci mai a scendere. Ma certo, ma questo è che... Questo è il capsula che stanno dando alla televisione, perché cosa sono? Per il vaccino, sono per quelli che sono guariti, che lo fai tramite coso, per quelli che li usano, per il momento li stanno usando in ospedale, li usano. Invece di fargli l'iniezione gli mettono questo coso qua, la pastiglia, e gli danno la pastiglia. Però adesso lo usano soltanto per in ospedale. Infatti io non sapevo per che cosa stavano producendo di questa roba. Stanno facendo parecchio. Meglio sapere, dai, queste cose. Meglio sapere. Cosa ci vuoi? Quando è che finirà che ci maturi tutto? Abbiamo fare la cosa, continua sempre. Accorti sempre. Oh, se sei buono, mi vuole in capo. Il Novax, se ti passi il vaccino, la cosa passa subito, basta. Basta. E cosa ti dica? A me mi pare che li pigliano ma te si caga fuori. Sono sempre gli semi che sono... Io sono morto 54 anni e ho 62. Arrivane. Vabbè, il capito da contare guarda che si è vediamo un po' cosa esce fuori. il fatto sta che ha rovinato un sacco di gente questa malassorte, ragazzi. Ma prima o poi si sapeva che cosa era arrivando. Si sapeva che prima o poi arriva in tutto il mondo e arrivendi. Infatti, è tutto il mondo a vivo, in tutto il mondo. Ora, chissà cosa sarà, chissà cosa sto. Chissà da un decido, chissà cosa. Lo stavano dicendo che in Cina stanno controllando uccelli, animali e tutto quanto, perché in molti posti non usano guanti, non usano nulla all'aperto, è per quello che sostengono tutti i tigosi. Perché ci sono molte nazioni proprio terra a terra, e anche quello c'è. Sa quante nazioni ci sono che non hanno, non sanno niente quelli lì, nemmeno a mangiare, se per mangiare cosa usano, qua ci usano quelli lì, o i poveri di gatti, poi da finisce poco da sia. Io sapeva. Vabbè Gianmarì, a me mi sacciamenti, ci risentiamo domani se tutto andare, ok? Ciao Gianmarì, stammi bene, buona cena a tutto quanto. Alla prossima. Ok, va d'accordo, ciao, ci sentiamo, va, brutti di vento, saluto di casa. A domani, ciao, buonanotte. Ciao Gianmarì.